paese ha bisogno sicuramente di crescere, le donne sono una risorsa fondamentale, quindi andiamo in quella direzione. E allora ci dica la proposta, perché è uscita un po' come detassare le donne. Come detassare le donne? No, guardi, allora, che innanzitutto non è una proposta. È un periodo in cui si parla di. No, guardi, è una proposta molto semplice e non è neanche particolarmente originale. L'idea è quella di prevedere la possibilità di detassare il reddito delle donne che hanno figli fino a una certa età, oppure che hanno anche a carico dei genitori anziani, in maniera tale di appunto consentirle più opportunità nel mondo del lavoro. Lei sa benissimo che il nostro tasso di occupazione in generale in Italia è più basso della media OCSE, e questo è particolarmente affondato dal basso tasso di occupazione femminile. La proposta che abbiamo fatto noi, tra l'altro, non è particolarmente innovativa, perché l'aveva per esempio tirata fuori anche Alberto Alesina, quindi non è niente di particolarmente nuovo. Però insomma, l'idea è quella di dare delle agevolazioni fiscali alle donne che o durante la carriera lavorativa si debbano occupare dei figli piccoli oppure di genitori anziani, che non mi sembra assolutamente, sono d'accordo con lei, nulla di rivoluzionario, anzi dovrebbe già esistere. È una cosa di buon senso, come esatto. Molte cose bisognerebbe fare in questo paese. Mi dice altre due cose di buon senso, se le ha, che le, su cui voi vi batterete, so che ce ne sono tante, però... Guardi, la prima cosa, sempre sulla, visto che oggi è uscito un dato piuttosto preoccupante sulla disoccupazione ne giovanile. Ne stavamo parlando adesso con il professor Della Ringa, infatti. Esatto, certo. Allora guardi, anche lì in maniera concreta, dobbiamo, prima cosa, per vincere la disoccupazione, ripartire dalle scuole. Il futuro di un paese inizia dai banchi di scuola, quindi noi dobbiamo avere scuole che formano e preparano, anzi prima ancora che orientano i ragazzi verso un mondo che è più complesso, più veloce, e quindi per metterli nelle condizioni di affrontare le sfide della contemporaneità all'altezza dei tempi, quindi con una cassetta degli attrezzi adeguati. L'altra cosa, quindi anche lì connessa col discorso della scuola, è l'immediata abolizione del valore legale del titolo di studio,